necessario calcolare ogni densità. Tutti i legni hanno lo stesso numeratore, 10 kg. Provate a ragionare sul denominatore. Un numero più grande al denominatore darà un risultato maggiore o minore.